Due. Lois fece non poca fatica a conquistarsi un posto in quella famiglia. Sua zia era donna di pochi, intensi affetti. L'amore per il marito, seppure ne aveva provato, si era consumato e spento tanto tempo prima. Ciò che faceva per lui lo faceva per dovere. Ma il senso del dovere non era abbastanza forte da frenare quel piccolo organo, la lingua. E spesso il cuore di Lois doleva al continuo flusso di rimproveri sprezzanti che Grace rivolgeva senza posa al marito, anche se contemporaneamente non si risparmiava fatiche o fastidi per contribuire al suo benessere fisico. Parlava così più per un suo sollievo personale che per il desiderio di ferirlo con i suoi discorsi, e lui era troppo intorpidito dal male per sentirsene vulnerato. O forse quella continua ripetizione di sarcasmi l'aveva reso indifferente. Ad ogni modo, se era stato provveduto al suo cibo e al suo benessere, molto raramente sembrava curarsi dell'altro. Perfino l'iniziale trasporto per Lois si esaurì presto. Teneva a lei perché era premurosa e abile negli aggiustargli i cuscini e sapeva preparare le cornie sconosciute e stuzzicanti per la sua nausea, ma non più perché era la figlia della sorella morta. Ma in un modo o nell'altro teneva a lei, e Lois era troppo felice di quel mucchietto di tenerezza per indagare sul perché o sul per come venisse accordata. A lui riusciva a dar piacere, ma apparentemente a nessun altro in casa. Sua zia la guardava con sospetto per molte ragioni. L'arrivo di Lois a Salem era stato inopportuno, e quella sua espressione della prima sera ancora bruciava nella memoria di Grace. Pregiudizi, predisposizioni e sentimenti radicati dall'infanzia portavano la ragazza inglese verso ciò che oggi si chiamerebbe chiesa e stato, e che lì allora era considerato osservanza superstiziosa di regole papiste e devozione servile alla famiglia di un re oppressore ed empio. Non si creda che in tutti coloro con cui era andata a vivere Lois non sentisse e acutamente la mancanza di simpatia per l'antico retaggio di lealtà religiosa e politica in cui era stata educata. In sua zia e Manasseh era più che mancanza di simpatia. Era un'avversione decisa e vitale per tutte le idee che a Lois erano più care. La semplice allusione, anche se del tutto casuale, alla piccola vecchia chiesa grigia di Bedford, dove suo padre aveva predicato così a lungo, il riferimento occasionale ai conflitti che avevano lacerato il suo paese quando era partita, e l'adesione all'idea, con cui era cresciuta, che il re non avesse colpe, sembrava irritare Manasseh oltre ogni limite. Se Lois diceva qualcosa in tal senso, interrompeva incollerito la lettura, sua occupazione costante quando era in casa, e si metteva a camminare avanti e indietro per la stanza, borbottando tra sé. E una volta si era persino fermato davanti a lei, le aveva intimato con veemenza di non parlare come una stupida. In realtà quel comportamento era molto diverso dal modo sarcastico e sprezzante con cui sua madre trattava tutte le piccole professioni di lealtà della povera ragazza. Grace soleva incoraggiarla, perlomeno all'inizio, prima che l'esperienza rendesse Lois più saggia, a esprimere le sue idee su quegli argomenti, sinché, proprio quando il cuore della ragazza si stava aprendo, la zia le si rivoltava contro, ferendola con acredine beffarda e suscitando così tutti gli istinti più malevoli dell'indole di Lois. A dire il vero, Manasseh, con tutta la sua ira, sembrava così profondamente addolorato per quello che considerava un errore, che quasi riuscì a convincerla che esistesse anche un'altra faccia del problema. Solo che, facendo proprio questo modo di pensare, le pareva di tradire la memoria del padre morto. In certo qual modo Lois sentiva istintivamente che Manasseh era ben disposto verso di lei. Passava poco tempo in casa, in quanto capofamiglia effettivo doveva occuparsi del lavoro agricolo e di una qualche attività mercantile. Con l'avanzare della stagione andava a caccia nelle foreste circostanti, con un'audacia che spingeva sua madre a rimproveri e avvertimenti quando era con lui, anche se poi con i vicini continuava a vantarsi del coraggio e della temerarietà di suo figlio. Lois non usciva spesso per il semplice gusto di uscire. Di solito era per sbrigare qualche commissione domestica, quando le altre donne di casa erano fuori, ma una o due volte aveva guardato di sfuggita la tetra, cupa foresta che cingeva tutt'intorno il terreno disboscato, l'immensa foresta con rami e fronde in movimento perenne. Con il sospiro grave che penetrava fin nelle vie di Salem, se soffiavano certi venti che portavano il suono degli abeti all'orecchio di chi aveva tempo di ascoltare. E in tutti i racconti, la vecchia foresta che avvolgeva la città era piena di belve terrificanti e misteriose, e di indiani ancor più terrificanti che strisciavano nell'ombra, meditando piani sanguinari contro il popolo cristiano. Indiani rasati, striati come pantere, complici per loro esplicita confessione e per credenza popolare dei poteri del male. Natti, la vecchia serva indiana, faceva a volte gelare il sangue a Lois quando, insieme a Faith e Prudence, ascoltava le storie feroci sugli stregoni della sua razza. Spesso era in cucina al calar del buio mentre un qualche lavoro era in corso, forse mentre s'aspettava che lievitasse la pasta per il pane di casa, che la vecchia indiana grinzosa raccontava le sue storie di magia, accoccolate in terra accanto al rosso vivo della brace, da cui non salivano fiamme, ma una luce spettrale che stravolgeva le ombre sui loro visi. Questi racconti erano sempre percorsi da un'insinuazione spaventosa e inespressa a sacrifici umani, indispensabili alla buona riuscita di un incantesimo consacrato a maligno. E la povera vecchia creatura, prestando fede e provando lei stessa terrore mentre narrava quelle storie in un inglese stentato, sentiva uno strano, inconsapevole piacere nell'esercitare il suo potere sulle ascoltatrici. Giovinette della razza degli oppressori che l'avevano ridotta poco più che una schiava e avevano scacciato la sua gente dai territori di caccia che erano appartenuti ai suoi padri. Dopo questi racconti, Lois doveva fare uno sforzo notevole per obbedire a sua zia e andare la sera nei campi comuni che circondavano la città per riportare il bestiame a casa. Chi poteva assicurarla che da dietro i rovi non si rizzasse il serpente a due teste, quell'essere infernale, maligno e astuto al servizio degli stregoni indiani, talmente potente che se una vergine bianca lo guardava negli occhi posti alle due estremità del corpo, lungo e sinuoso e strisciante, non importa quanto le ripugnasse lui e la razza indiana, era obbligata ad addentrarsi nella foresta e cercare un uomo che la prendesse nella sua tenda, abiurando per sempre fede e razza. E poi vi erano fatture, aveva detto Natti, nascoste dagli stregoni nei boschi, che trasformavano la natura di chi le trovava, sicché, per quanto gentile e amorevole potesse essere stato prima, di lì in poi traeva il suo unico piacere dai tormenti crudeli che infliggeva agli altri, e che poteva provocare a suo piacimento per lo strano potere di cui veniva in possesso. Una volta Natti, parlando sottovoce a Lois, che era sola con lei in cucina, sussurrò, terrorizzata, la sua convinzione che Prudence avesse trovato una di quelle fatture. E quando l'indiana si scoprì le braccia coperte di lividi dove la bambina maligna l'aveva appizzicata, la ragazza inglese cominciò ad avere paura di sua cugina, convinta che fosse invasata. Ma non era solo Natti o ragazze piene di immaginazione a credere queste storie. Oggi possono farci sorridere. Tuttavia i nostri antenati inglesi aderivano in quello stesso periodo a superstizioni in gran parte identiche, ma con meno giustificazioni, poiché la realtà circostante era più conosciuta e perciò più comprensibile al senso comune delle impenetrabili, inesplorate foreste della Nuova Inghilterra, davvero avvolte nel mistero. Teologi più austeri non solo prestavano fede a storie simili a quella del serpente a due teste e ad altri racconti di stregoneria, ma ne facevano argomento di prediche e di preghiere. E poiché la codardia rende crudeli, vi furono uomini in quel tempo irreprensibili sotto molti aspetti della vita e persino lodevoli sotto alcuni altri, che in preda alla superstizione divennero persecutori crudeli e spietati di chi ritenevano complice del maligno. Nella casa di suo zio, Faith era la persona a cui Lois era più intimamente legata. Avevano circa la stessa età e si alternavano in alcuni lavori domestici. A turno riportavano nella stalla le mucche e dividevano in pani il burro che si occupava di fare Hosie, una vecchia serva scontrosa che non viveva in casa e in cui Grace Hickson riponeva grande fiducia. E prima che fosse passato un mese dall'arrivo di Lois, tutte e due le ragazzette ebbero un filatoio grande da lana e uno piccolo da lino. Faith era una persona seria e silenziosa, mai allegra, talora molto triste, sebbene Lois a lungo non riuscisse neppure a intuire il perché. Con la dolcezza e la semplicità che le eran proprie, cercava di mettere il buon umore in sua cugina quando era depressa, raccontando le vecchie storie sulla vita e le consuetudini inglesi. A volte Faith sembrava interessata, altre non badava a una sola parola e continuava a fantasticare sul passato o sul futuro, chissà. Severi, vecchi ministri del culto si recavano da loro per le visite pastorali. In quelle occasioni Grace Hickson si cambiava grembiule e cuffia e, dando un benvenuto più caloroso di quanto l'avessero vista fare con chiunque altro, tirava fuori dalla dispensa le provviste migliori e ne offriva con generosità. Si portava fuori anche la grande Bibbia e Hosie e Natty venivano convocate dal lavoro perché sentissero il pastore leggerne un capitolo e interpretarlo minuziosamente durante la lettura. Quando aveva finito, tutti si inginocchiavano mentre in piedi alzava la mano destra e pregava per tutte le possibili comunità di cristiani e per tutte le possibili esigenze di tipo spirituale. Infine, riferendosi ai presenti, innalzava una supplica molto personale per ognuno, sulla base delle sue supposizioni sulle carenze altrui. Da principio Lois si stupì della precisione con cui una o due di queste preghiere si adattavano alle circostanze esteriori di ogni caso. Ma quando notò che di solito sua zia e il pastore conversavano a lungo e confidenzialmente nella prima parte della visita, si rese conto che il tramite di impressioni e notizie era quella donna pia Grace Hickson. E temo che da allora tenesse in minor considerazione la preghiera per la giovane di un'altra terra che da quella terra, attraverso il grande oceano, ha portato con sé l'errore, quasi fosse una semenza, e che anche ora fa sì che il piccolo seme germoglia diventi un albero maligno alla cui ombra tutte le creature immonde possano trovare riparo. «Preferisco le preghiere della nostra chiesa», disse Lois un giorno a Faith. «Nessun sacerdote in Inghilterra può usare le proprie parole per pregare, e così non può esprimere giudizi sugli altri e adattare le preghiere alle sue supposizioni come ha fatto il signor Tappau stamattina». «Odio Tappau», disse Faith bruscamente, e una passione veemente lampeggiò nei suoi occhi scuri e seri. «Perché, cugina? Mi sembra un buon uomo, anche se non mi piacciono le sue preghiere». Faith si limitò a ripetere: «Lo odio!» Lois provò dispiacere per quell'intenso sentimento malevolo, un dispiacere istintivo, avendo lei una natura desiderosa di dare e ricevere amore, su cui strideva ogni senso di mancanza d'amore negli altri. Ma quella volta non sapeva che dire, e così rimase in silenzio. Faith continuò a far girare la ruota con foga, senza parlare, sinché il filo si spezzò, e allora spinse via in fretta il filatoio e lasciò la stanza. Allora Prudence pian piano si avvicinò a Lois. La strana bambina sembrava agitata da umori mutevoli. Un giorno era dolce ed espansiva. Il giorno dopo poteva essere falsa, beffarda e talmente indifferente alla pena o al dolore altrui da divenire quasi disumana. «Sicché non ti piacciono le preghiere del pastore Tappau?» sussurrò. A Lois dispiacque che avesse sorpreso le sue parole, ma non poteva né voleva ritirarle. «Mi piacciono meno di quelle che sentivo a casa. Mia madre dice che la tua casa era tra gli empi». «No, non guardarmi così, non sono stata io a dirlo. Io pure non ci tengo poi tanto a pregare, e neanche al pastore Tappau se è per questo. Ma Faith non lo sopporta proprio, io so perché. Vuoi che te lo dica, cugina Lois?» «No, non me l'ha detto Faith, che è l'unica a poter dire le sue ragioni». «Chiedile dove è andato il giovane signor Nolan e sentirai. Per lui l'ho vista piangere per ore». «Zitta, bambina, zitta!» disse Lois, sentendo il passo di Faith che si avvicinava e temendo che potesse sorprenderle a parlare di quell'argomento. Il fatto è che 1 o 2 anni prima vi era stato un gran conflitto nel paese di Salem, una profonda scissione nella comunità religiosa, e il pastore Tappau aveva capeggiato la fazione più violenta e infine vittoriosa. In seguito a ciò, il meno popolare pastore Nolan aveva dovuto abbandonare la città e Faith Hickson lo amava con tutta la forza del suo cuore appassionato, sebbene lui fosse del tutto inconsapevole dell'affezione che aveva provocato. E sebbene la famiglia di lei fosse troppo indifferente a manifestazioni di puro sentimento per accorgersi dei segni di una sua qualsiasi emozione. Ma se ne accorgeva Natti, la vecchia serva indiana, e li vedeva tutti. Sapeva, come se gliene avessero detta la ragione, perché Faith non si curava più di padre e madre, fratello e sorella, di lavori domestici, occupazioni quotidiane e neppure dei suoi doveri religiosi. Natti leggeva il vero significato della profonda avversione covata da Faith contro il pastore Tappau. La donna indiana capiva perché la ragazza, l'unica tra i bianchi da lei amata, evitava il vecchio ministro e preferiva rintanarsi tra le cataste di legna piuttosto che entrare dentro a sentire esortazioni e preghiere. Tra i selvaggi e gli incolti non si dice se ami me, ama anche il mio cane, perché sono spesso gelosi della creatura amata. Si dice invece odierò colui che tu odi. E il sentimento di Natti per il pastore Tappau era ancora più intenso dell'odio muto e inespresso di Faith. Per Lois fu a lungo un mistero perché sua cugina detestasse ed evitasse il pastore, ma il nome di Nolan restò, volente o nolente, nella memoria. E fu per l'attrazione esercitata sul suo animo di ragazza da un possibile affare di cuore, più che per una curiosità insensibile e indifferente, che, cercando indizi chiarificatori, non poté fare a meno di connettere brevi frasi e piccoli gesti all'interesse di Faith per il pastore esiliato e lontano, sicché, nella sua mente, non rimase alcun dubbio. Tutto si chiarì, senza ulteriori informazioni da parte di Prudence, poiché Lois rifiutò di sentire altro da lei sull'argomento, arrecandole in tal modo grave offesa. Mentre avanzava l'autunno, Faith si fece più triste e più cupa. Perse l'appetito, la carnagione bruna divenne pallida e terrea, gli occhi scuri, infossati e selvaggi. Si avvicinava il primo giorno di novembre. Lois, nei suoi sforzi istintivi e ben intenzionati di portare un po' di vita e di allegria nella casa monotona, si era messa a raccontare a Faith di molte usanze inglesi, tutte piuttosto insignificanti e incapaci di suscitare un minimo fremito di interesse nella mente della ragazza americana. Le due cugine erano a letto sveglie nella grande camera senza intonaco, in parte magazzino e in parte stanza da letto. Lois era piena d'affetto per Faith quella notte. A lungo ne aveva ascoltato in silenzio i sospiri profondi e irreprimibili. Sospirava perché la sua pena era troppo antica per emozioni violente o lacrime. A lungo, molto a lungo, Lois ascoltò senza parlare nelle quiete, buie ore della notte. Non si muoveva, pensando che questo sfogo del dolore potesse alleviare il cuore pesante di sua cugina. Ma quando infine, invece di giacere immobile, Faith sembrò divenire sempre più irrequieta, sino ad avere moti convulsi agli arti, Lois cominciò a parlare, a raccontare dell'Inghilterra, delle vecchie care abitudini di casa sua, senza che Faith prestasse molta attenzione, sinché, alla fine, si trovò a parlare della vigilia di Ogni Santi e narrò di usanze praticate in Inghilterra, allora e per molto tempo in seguito, e che ancora oggi sopravvivono in Scozia. Quando raccontò dei giochi del passato, della mela mangiata davanti allo specchio, delle lenzuola gocciolanti, dei catini d'acqua, delle noci che bruciavano appaiate e di tanti altri innocenti modi di profetare, attraverso cui i ridenti e tremanti vergini inglesi tentavano di vedere l'immagine dei loro futuri mariti, sempre che fossero destinate ad avere marito, a quel punto Faith si mise ad ascoltare, col fiato sospeso, ponendo brevi, ansiose domande, come se un raggio di speranza fosse penetrato nel suo cuore triste. Lois, in parte convinta e in parte incredula, ma comunque desiderosa di rallegrare la povera Faith, continuò a parlarle, narrando le storie che provavano la verità della seconda visione concessa a chi la cercava, secondo i metodi consueti. Improvvisamente Prudence si alzò dalla brandina nell'angolo buio della stanza. Non credevano che fosse sveglia, invece era stata ad ascoltare a lungo. La cugina Lois può andar fuori a incontrare Satana sulla riva del fiume se vuole. Ma se ci vai tu, Faith, lo dico a nostra madre. Sì, e lo dico anche al pastore Tappau. Tienti per te le tue storie, cugina Lois. Ho paura perfino di respirare. Preferisco non sposarmi per niente che sentirmi toccare dall'essere che mi prende la mela dalla mano mentre la tengo sopra la spalla sinistra. La bambina, eccitata, lanciò un urlo di terrore di fronte all'immagine che la sua fantasia aveva evocato. Faith e Lois si precipitarono fuori dal letto verso di lei, attraverso la stanza illuminata dalla luna, nelle bianche camicie da notte, in quello stesso istante, richiamata dallo stesso grido, Grace Hickson accorse dalla sua bambina. «Zitta, zitta!» disse Faith in modo perentorio. «Che c'è, ragazza mia?» chiese Grace. E intanto Lois, sentendosi come se fosse stata lei la causa di tutto, stava in silenzio. «Portala via! Portala via!» urlava Prudence. «Guarda! Sopra la sua spalla! La spalla sinistra! Il maligno adesso è lì! Lo vedo sporgersi verso la mela già morsa!» «Ma cosa sta dicendo?» chiese severamente Grace. «Sta sognando!» disse Faith. «Prudence, tieni la bocca chiusa!» E con violenza pizzicò la bambina, mentre Lois con maggior tenerezza cercava di acquietare l'agitazione che aveva suscitato. «Calmati, Prudence», disse, «e va a letto, starò accanto a te finché non ti addormenti». «No, no, vattene!» singhiozzò Prudence, che da principio era davvero terrorizzata, ma che a quel punto si mostrava più spaventata di quanto in realtà non fosse per il piacere di sentirsi al centro dell'attenzione. «Faith starà vicino a me, non tu, maligna strega inglese!» E così Faith si sedette accanto a sua sorella e Grace, scontenta e perplessa, se ne tornò a letto proponendosi di indagare più a fondo sulla faccenda la mattina seguente. Lois sperò soltanto che per allora tutto fosse già dimenticato e prese la risoluzione di non toccare mai più argomenti simili. Ma un evento accaduto nelle ore seguenti della notte modificò il corso delle cose. Mentre Grace era assente dalla stanza, suo marito era stato colpito da un altro attacco di paralisi. Nessuno seppe mai se lo strano grido avesse sconvolto anche lui. Alla luce fioca della candela di midollo di giunco che ardeva accanto al letto, sua moglie comprese al ritorno che un grande cambiamento era venuto in lui. Respirava irregolarmente, quasi sbuffando, e si stava avviando alla fine. Tutta la famiglia era in piedi a dare l'aiuto che il medico o l'esperienza suggeriva, ma prima che sorgesse la tarda luce della mattina di novembre, tutto era finito per Ralph Hickson. L'intera giornata seguente se ne stettero seduti o si aggirarono per stanze oscurate, parlando poco e anche quel poco sottovoce. Manasseh non uscì di casa e sicuramente rimpiangeva suo padre, anche se l'emozione manifestata era minima. Faith fu la figlia che più amaramente si crucciò per quella perdita. Aveva un cuore tenero, nascosto da qualche parte sotto l'aspetto ombroso, e suo padre le aveva dimostrato una quieta dolcezza, come non aveva mai fatto la madre, che prediligeva Manasseh, l'unico maschio, e Prudence, la più piccola. Lois era infelice, quasi quanto loro, perché si era sentita molto legata allo zio, il più gentile di tutti. E il senso di quella perdita aveva rinnovato l'antico dolore provato alla morte dei genitori, ma non ebbe tempo per piangere, né un luogo dove poterlo fare. Su di lei ricaddero molte incombenze, l'adempimento delle quali, da parte dei parenti più prossimi, sarebbe stato considerato indecoroso. L'indispensabile adeguamento degli abiti, i preparativi domestici per la triste celebrazione del funerale, di tutto si dovette occupare Lois, sotto la guida severa di sua zia.